Rassegna Stampa Europa. Cari amici, cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donnelli, benvenuti all'appuntamento con la stampa europea che racconta l'Europa, l'Europa dell'Unione, dunque l'Europa che si è recentemente allargata alla Croazia e che naturalmente sempre di più spazia nelle sue attività sull'intero pianeta. E direi che da questo punto parte proprio il primo spunto di oggi, viene da Profil, quotidiano austriaco di Vienna, si occupa della questione dell'accordo libero scambio Unione Europea-Stati Uniti, un tema molto importante, per alcuni addirittura cruciale per il futuro della ripresa economica. Ecco, in particolare il quotidiano Profil scrive in un articolo che bisogna stare molto attenti a mettere, diciamo, i bastoni tra le ruote, o comunque, anzi, più meno drammaticamente dice, a mettere la sabbia nei meccanismi, appunto, della trattativa a causa della vicenda Snowden. Il magazine dice: l'accordo deve procedere perché questa trattativa non porterà solo degli importanti vantaggi economici, ma una dimensione politica di primaria importanza. Secondo Profil, appunto, che come dicevo un quotidiano austriaco, questo accordo, se ben fatto, potrà davvero finalmente dare all'Unione Europea quella dimensione globale che cerca da tempo. D'altra parte, l'autore di questo articolo sottolinea che anche in questo dossier è indispensabile che la Germania, diciamo, cambi atteggiamento. Berlino dice deve rapidamente mettere fine alle sue politiche di austerità e investire invece tutto il suo peso economico e politico su quello che è la crescita. Su questo tema, tra l'altro, vi segnalo anche dalla stampa italiana molte le ricadute. Sulla stampa la segnalazione che Saccomanni, dunque il ministro dell'economia italiano, che dice esattamente la stessa cosa con altri termini: il caso Snowden non blocchi l'accordo Unione Europea-USA sulla zona di libero scambio. E dall'Austria e con coda italiana all'Olanda, un quotidiano che si chiama Trouw spiega e riflette sul ruolo dei politici in Europa e in questa crisi. Dice il quotidiano olandese: i politici europei dovrebbero tutti quanti leggere Friedrich Hegel, in particolare la fenomenologia dello spirito, per comprendere a fondo le ragioni e anche le vie di uscita di questa crisi. La prosperità, infatti, spiega il testo classico, non è la risposta a tutto, e i cittadini dell'Unione Europea dovrebbero invece valorizzare e riconoscere di più quello che è il peso, il significato, il valore della democrazia. Problemi invece di altra natura sono quelli segnalati dal quotidiano BT. Qui siamo in Danimarca, a Copenaghen c'è un problema in realtà non proprio nuovissimo, che riguarda gli assegni familiari di chi dopo 4 anni appunto di presenza in Danimarca entra di fatto nel sistema di welfare, nel sistema sociale, naturalmente generoso, notoriamente generoso, del paese appunto del nord. Molti politici danesi dicono: basta, abbiamo esagerato, troppi nuovi cittadini o residenti in Danimarca stanno beneficiando appunto di questa possibilità, che peraltro, secondo il quotidiano BT, prevede anche una fetta della maggioranza danese che non la pensa affatto così, ma ritiene anzi che sarebbe opportuno allargare, che insomma il modello sociale danese di fatto si fonda anche su questa, diciamo, generosità sociale. Chi invece non è per niente contento, ci riferisce il quotidiano polacco Puls Biznesu, è la categoria dei macellatori di Polonia. Che cos'è accaduto? È accaduto che il governo polacco ha posto un bando nei confronti della macellazione rituale. Che cos'è la macellazione rituale? In caso specifico è quella halal. Allora vi leggo. Secondo la macellazione halal, la carne deve essere macellata secondo linee guida ben fissate. Gli animali devono essere coscienti al momento dell'uccisione, che deve essere procurata recidendo la trachea e l'esofago, e sopravvenire per il dissanguamento completo dell'animale. Ora, questo naturalmente è un aspetto che fa storcere il naso ai più e fa inorridire anche alcuni, ma insomma, in termini pratici, il governo polacco ha messo un bando su questa pratica, cosa che però pare riguardi un affare, così indica il quotidiano appunto Puls Biznesu, in Europa un valore complessivo, pensate, di 470 milioni di euro per anno. Ora pare che a fregarsi le mani di questa decisione che appunto preoccupa i polacchi, ma sembra dia invece grande soddisfazione ai macellatori francesi, altri diciamo protagonisti di questo mercato in Europa, che naturalmente ne trarrebbero un netto vantaggio economico. Ancora un altro tema molto importante di questa settimana è stato innescato, e gli articoli sono davvero molti, dalla presa di posizione europea sul finanziamento ai progetti israeliani intorno agli insediamenti. In particolare il primo ministro, qui vi cito un articolo che è quello dell'Irish Herald, ma davvero sono molti quotidiani di fatto di tutta Europa che hanno affrontato la questione. Il provvedimento, che è entrato in vigore ieri, vieta qualsiasi finanziamento dell'Unione Europea per le comunità ebraiche in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, oppure nei territori occupati, quelli delle alture del Golan, occupati appunto nel 67, nell'ultimo giorno della guerra dei sei giorni. Una decisione che era stata dibattuta lungamente a livello europeo, che ha suscitato un'aspra reazione da parte del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che dopo avere appunto cercato di opporsi con tutte le sue forze alla decisione ha espresso la rabbia, dicendo tra l'altro che questa iniziativa non farà che complicare la trattativa appunto tra israeliani e palestinesi. Insomma, una decisione naturalmente di carattere economica molto importante. Tra l'altro vale la pena ricordare, come giustamente ricorda il quotidiano irlandese in questo caso specifico, che l'Unione Europea è di gran lunga il primo partner commerciale di Israele, con scambi per oltre 29 miliardi nel 2011. Più di un terzo delle importazioni israeliane provengono infatti da stati membri dell'Unione, e il blocco europeo a sua volta acquista più di un quarto di tutte le esportazioni di Israele. Ecco un altro tema che abbiamo trovato di fatto su tutti i quotidiani europei riguarda il cuore stesso del sistema, o meglio Bruxelles, la rivolta e la protesta degli stagisti sfruttati. Questo è il titolo di un articolo, la pacifica rivolta degli stagisti europei, è uno degli articoli in questo caso dalla Stampa, quindi un quotidiano italiano, che ricorda come centinaia di stagisti abbiano protestato questa settimana di fronte ai palazzi dell'Unione Europea, in particolare a quello della Commissione a Bruxelles, per chiedere appunto che vengano radicalmente trasformati quelli che sono i meccanismi di impiego degli stagisti. Molti parlamentari di fatto si sono avvicinati agli autori della protesta e hanno espresso anche ai nostri microfoni, tra l'altro approfitto, potete ritrovare tutti questi temi sull'Europa all'interno del nostro sito su Europa 24. Dicevo, molti parlamentari hanno sostenuto la protesta parlando di vero e proprio sfruttamento. Ancora, e direi che con questo andiamo in conclusione, un tema abbiamo aperto parlando dell'accordo di libero scambio tra Europa e Stati Uniti e di come il caso Snowden e quindi in particolare lo spionaggio americano abbia insomma agitato un po' le acque dei rapporti, ma la sensazione è che nessuno abbia nessuna intenzione di mettere in discussione il dossier per questa vicenda. Invece vorrei concludere con quello che è l'altro grande interlocutore nei rapporti economici dell'Unione Europea, cioè la Cina. Clima, UE soddisfatta sull'impegno della Cina contro il riscaldamento globale. Allora, questo titolo quasi un po' compiaciuto, ci ricorda che questa settimana è stata anche segnata da un'importante missione dell'Unione Europea. La missione è stata guidata dal vicepresidente della Commissione Tajani in Cina. Come mai tanta soddisfazione? I cinesi hanno deciso di cambiare la qualità dell'aria, dell'acqua delle loro città, e l'Europa ha la tecnologia adatta per aiutarle a farlo, naturalmente in ballo affari da miliardi. Bene, e con questo direi che siamo arrivati alla conclusione per la rassegna stampa europea. L'appuntamento è per la prossima settimana. Buona domenica a tutti voi. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.